Italia in controluce. Buongiorno da Anna Migliorati per l'appuntamento con la cronaca e i personaggi che raccontano l'Italia in controluce. Il capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, invita tutti i direttori dei giornali a visitare L'Aquila per verificare, dice, che la città non è stata abbandonata. Sul Sole 24 Ore di oggi potete leggere uno stralcio della lettera. E noi vi portiamo invece all'Aquila con Cristina Carpinelli. Ma noi oggi stiamo dimostrando che non vogliamo andare via, vogliamo rimanere qui, vogliamo lottare, soffrire anche, vogliamo vedere una prospettiva. 10 anni di sofferenza. Il 6 aprile 2009, in un crescendo spaventoso, violente scosse di terremoto colpiscono L'Aquila. Muoiono 308 persone, 16 di loro sono bambini. La città è distrutta, la gente allontanata, le proteste, a distanza di un anno, per una ricostruzione mancata, per un rispetto mancato. Così, il 16 giugno 2010, quindi solo qualche giorno fa, gli aquilani, e sono 20.000, scendono in piazza e chiedono di entrare in città. Urlano questo ai carabinieri che piantonano le reti di protezione. Le reti attorno alla città stanno creando angoscia nei ragazzini adolescenti, ci dice madre Maria Nazarena, che è la madre superiora delle missionarie della dottrina cristiana e che da sempre è un punto di riferimento all'Aquila. Noi vediamo la nostra città dietro le reti e questo crea angoscia, a parte che si è decentrata la città, perché ci sono 19 quartieri nuovi che hanno la casa ma non hanno i luoghi di incontro. Allora, cosa sta succedendo? Che i bambini piccoli della scuola materna non si sono resi conto di quello che è accaduto. I bambini delle scuole elementari, noi stiamo facendo di tutto, giochi, feste, mongolfiere, li portiamo fuori. Cioè, c'è una brava psicologa nella nostra scuola che li seguirà per 3 anni, seguirà bambini, genitori e insegnanti. Quindi penso che da questo ceppo, da questa età, si nascerà una nuova Aquila. I giovani necessariamente, secondo me, dovranno andarsene, perché l'Aquila è una città dove si studia. Si comincia dalla scuola materna e uno sa che deve arrivare all'università. Però poi cosa fanno? La città non promette più nulla, perché la città è recintata e un monumento che non vorremmo diventasse una seconda Pompei. La fascia che più ci preoccupa, che non sa che cosa fare, che si sta sbandando, è l'adolescenza, perché si trovano imbambolati. Il 16 giugno, per tutta una serie di ragioni, allora gli aquilani scendono in piazza. C'è anche madre Maria Nazarena Di Paola. È stata bellissima, guardi, la città intera è uscita, tutti siamo usciti, tutti, e in silenzio solo con le bandiere della città. E spero che abbia toccato il cuore di Tremonti, questo lo dico, io ho scritto anche una lettera personale a Tremonti e una a Berlusconi, perché Berlusconi veniva a trovarci sempre, per il fischio di 3-4 stupidi non è venuto più, ma non è possibile che si lascia una città con degli alberi verdi, perché un albero è caduto. Succede una cosa incredibile. La sera del 16 giugno né il TG1 né il TG2 né alcun telegiornale Mediaset riporterà la protesta. Eppure la manifestazione era grande per una città come L'Aquila, dice Stefania Pezzopane, ex presidente della provincia. Gli aquilani che manifestavano il 16 giugno scorso chiedevano la sospensione delle tasse ed azioni di rilancio per le popolazioni e i territori terremotati. Questioni di grande importanza, perché il problema tasse, assieme alla devastazione provocata dal terremoto, sta spingendo chi può a scappare dall'Aquila. E infatti lo spopolamento è già cominciato subito dopo il sisma. I problemi si sommano dunque uno sull'altro, dice Stefania Pezzopane, ex presidente della provincia dell'Aquila. C'è stato un grande sforzo all'inizio per supportare l'emergenza, ma poi mano a mano che passavano i mesi c'è stato un rallentamento dell'intervento e oggi a 14 mesi di distanza noi consumiamo una vita precaria in luoghi transitori. Transitori sono ancora i luoghi dove viviamo, 50.000 persone ancora vivono fuori dalla loro casa o nelle case del progetto case o nelle case transitorie, un'autonoma sistemazione, sono troppe. E i numeri sono troppo alti. Abbiamo una gravissima crisi economica con una cassa integrazione che purtroppo è decuplicata e crea un disorientamento e una grave crisi sociale. E lo stesso dicasi per la disoccupazione, l'abbandono scolastico è altissimo e purtroppo sono migliaia gli studenti che hanno deciso di abbandonare L'Aquila. Quello che ci crea disappunto è che ormai l'Italia pensa che L'Aquila è stata ricostruita, purtroppo non è così, per la prima volta in una calamità naturale chi è colpito da questa calamità, cioè noi, siamo costretti a tornare a pagare le tasse. Questo significa dare una mazzata alle famiglie, ai contribuenti, alle aziende, significa impedirci di ripartire. Che la città stia arrancando lo dice anche Madre Maria Nazarena, che è la madre superiora delle missionarie della dottrina cristiana. Ci daranno 750 euro a metro quadro per la ricostruzione. Ora, una ricostruzione meno di 1200 euro qui all'Aquila non si fa. Quindi le case, metà ce la dovremmo pagare noi, ma una povera cristiana che ha la pensione sociale come deve fare? Deve pagare le tasse dal giorno del terremoto. La cosa poi che abbiamo visto ingiustissima e per la quale è stata fatta la manifestazione è che però hanno pagato le tasse dopo 10 anni e il 40%. Qui dopo 14 mesi ci hanno richiesto le tasse a cominciare dal 6 aprile, anche dal giorno in cui stavamo scavando i morti. State giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento. Italia in controluce. A rischio estinzione sono anche i piccoli borghi della provincia dell'Aquila, veri e propri gioielli che, già in abbandono prima del sisma, ora lo sono ancora di più. Uno di questi, Santo Stefano di Sessanio, se l'è preso in carico un imprenditore italo-svedese che la stessa operazione l'ha fatta anche altrove, in Calabria e in Sicilia. La sua storia ce la racconta Gennaro Grimolizzi. Eclettico e caparbio, così si definisce Daniele Kilgren. L'imprenditore italo-svedese si dedica alla ristrutturazione dei borghi abbandonati o in procinto di rimanere disabitati per sempre, cercando di conservare il più possibile la natura originaria dei luoghi. Famoso il recupero di Santo Stefano di Sessanio, in provincia dell'Aquila, poco danneggiato dal terremoto di un anno fa. Kilgren ha acquistato un patrimonio immobiliare di circa 3.500 metri quadrati. L'antico borgo è stato recuperato con la supervisione di esperti specializzati in archeologia medievale. Quella dell'imprenditore italo-svedese non è solo un'attività imprenditoriale in senso stretto, ma una vera e propria opera di sensibilizzazione culturale. Un patrimonio storico minore e a volte anche, come nel caso di Santo Stefano di Sessanio, un paesaggio che è tanto forte nell'immaginario, questi borghi incastellati, aggrappati alle rocce, alle loro rocce, di cui è pieno gli Appennini, soprattutto l'Appennino meridionale, di scempi ne abbiamo visti tanti, e visto che ho immaginato che questo non soltanto era un grande progetto culturale, ma deve essere una grande risorsa economica. Ma prendiamo il caso di Santo Stefano di Sessanio, era un borgo di 3.000 anime, oggi sono 70 abitanti, purtroppo questi paesaggi sono a rischio di estinzione. I progetti di Kilgren vanno dall'Abruzzo in giù e riguardano una decina di borghi. Le attenzioni sono rivolte anche a Salemi, in Sicilia, e Laino Castello, sul versante calabrese del Parco Nazionale del Pollino. Noi abbiamo preso 10 borghi negli Abruzzi, Abruzzo e Molise, come si studiava a scuola, e poi, Laino Castello, siamo in una fase più avanzata di trattativa, tra Musellaro, Sallevecchio e il Calamanico, la zona sotto di Calamanico, che è una zona stupenda, inviolata, piena di storia, dal periodo romano anche all'alto medioevo, il periodo di transizione tra i Longobardi e di Franchi, quindi un concetto di tutela e di restauro molto ampio. Un altro esempio di recupero sapiente si trova a Matera. Kilgren è rimasto folgorato durante un viaggio in moto dallo scenario dei Sassi. Un tempo vergogna nazionale per le condizioni in cui erano costretti a vivere gli abitanti, oggi patrimonio mondiale dell'umanità. affiancato dalla socia Margaret Berg, ha realizzato un residence diffuso che comprende 19 tra stanze ed alloggi. Le grotte sono state recuperate con l'utilizzo di materiali coerenti con l'originaria natura dei luoghi, a partire dal legno, pietra e ferro battuto, con l'obiettivo di contribuire a mantenere in vita mestieri quasi scomparsi. La ristrutturazione è costata 2 milioni di euro. È tutto per Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Potete scrivere per raccontarci le vostre storie a controluce@radio24.it oppure cercateci su Facebook. Ci risentiamo alla prossima edizione domattina alle 6.30.